24 mattino. Mi addolora molto ascoltare le accuse che sono state rivolte a Fausto in questi giorni, pur nutrendo il massimo rispetto per le donne che si sono sentite ferite. Mio marito ha ribadito più volte di non aver mai avuto rapporti non consenzienti. In questo momento gli sono vicina, perché così avviene tra una moglie e un marito quando si affrontano periodi difficili. Queste accuse formulate in TV, nei salotti televisivi di trasmissioni di gossip, senza nessuna garanzia, possono distruggere la carriera di un uomo, il suo matrimonio e la sua esistenza. Era la lettera della moglie di Fausto Brizzi, la Zanella, letta ieri a Matrix con un doppiaggio fra l'altro bello da una giornalista, Claudia Marchionni. Il tono, penso, e la passione, la tristezza di questa voce raccontano bene il dramma di questa, di questo appello pubblico. Allora, i giornali di oggi, pronti per sapere cosa c'è in pagina? La Stampa: Di Maio vede Parolin, prove di disgelo con la Santa Sede. Intervista al leader grillino: taglierò le tasse alle imprese come Trump. Il fondo di Stefano Stefanini: in Libia c'è chi soffia sul fuoco. E poi una foto di prima anomala, un manifesto per salvare il Po. Inquinamento, siccità, una ventina di associazioni in campo per curarlo. Il Fatto Quotidiano: altra inchiesta su Del 7. Il comandante dell'arma accusato di favorire le manovre del sindacato kosher, non solo Consip, abuso d'ufficio per gli ufficiali trasferiti. C'è poi ovviamente un taglio centrale, il PD sempre più solo, Fassino snobbato da Grasso e da D'Alema. Il fondo, gli darò un'occhiata, è un fondo curiosissimo, in Marco Travaglio il gufo colpisce ancora, e di quelli un po' paradossali, perché ha raccolto tutte le profezie di Renzi che poi non si sono avvirate, a partire da quella che sta girando ora in pazza in rete sui mondiali. E la verità: i molti affari di Tavecchio sulla pelle della nazionale, perché deve andarsene? Non solo il fallimento sportivo, a carico del presidente della FIGC, accuse di aver intascato soldi per le polizze calcio e lo scandalo della sede della Lega Dilettanti, tutto rivelato dalla verità. E il fondo di Belpietro: restiamo penultimi e adesso ci mandano il conto. Il riferimento ovviamente è al problema del bilancio e il governo nei rapporti con l'Unione Europea. Il Giornale: spunta un altro caso di tasse non dovute. Dopo la Tari arriva il balzello sugli atenei, rette illegali, case occupate, lo Stato deve risarcire i proprietari, Gianmaria De Francesco. E Giuseppe Marino, il fondo contro la crociata anti-italiana, dice il corsivista del Giornale: ecco le prove, con i lager libici noi non c'entriamo nulla. Libero: la sanità italiana, paginone sparato, e ancora la migliore al mondo. All'ospedale Cardarelli di Napoli mancano i letti e un uomo è stato ricoverato così, adagiato su una sedia per quasi 24 ore, l'ultimo caso di una lunga serie. E ci diamo tante arie dicendo che la salute è un diritto, ma è solo un rovescio, la foto di quest'uomo coperto malamente con un plaid rannicchiato. Effettivamente la foto è una foto che colpisce. Filippo Facci: la legge che protegge pure i deratori e i lavativi, ennesima trovata del Parlamento, lo spiegheremo meglio, è una norma che divide, ma vi dà l'idea. Segnalazione di una spalla, un pezzo di spalla di Vittorio Feltri sul libro della Hunziker: sono riuscita a raddrizzare una vita storta. La Gazzetta dello Sport: Ancelotti non basta, Tavecchio non si dimette, lavoriamo per prendere un grandissimo allenatore lunedì, i programmi, si punta all'ex tecnico rossonero che però non si legherebbe a una FIGC debole. È carino il titolo dell'editoriale di Andrea Monti: eppur non si muove. Avvenire: il DNA si aggiusta, esperimento senza precedenti su un malato statunitense, può essere la speranza per le patologie genetiche. Pensate, una complessa tecnica per la correzione mirata di un difetto nelle cellule del fegato, fra 3 mesi si saprà se la terapia funziona bene. L'editoriale: astensione e repulsione sul sondaggio sul cosiddetto, è una parola che forse entrerà, cosiddetto razzismo giustificato. La Raggi ci fa strisce, blu il tempo, ecco la stangata, nuovo piano del Campidoglio per far cassa coi parcheggi, tariffe fino a 3 euro l'ora e anche fuori dagli ospedali, addio, mini abbonamenti. È curioso perché Roma, le vicende che riguardano anche piccole norme del Comune di Roma diventano notizie nazionali. Schiaffo grillino ai dimenticati delle periferie, il fondo su questo tema di Matteo Vincenzoni. Il Foglio. Le chiese come i musei, la Francia si interroga sul biglietto d'ingresso. Poi che faremo? Porteremo i capolavori cristiani al Louvre? E il fondo di Cerasa oggi è chi si arma contro il circo mediatico. Del 7, ultimo scafarto, il carabiniere, un anno ai primi schizzi di fango, il caso Consip, l'errore della gogna ha spinto l'arma a ridefinire il confine fra chi persegue i reati e le persone. Un grande j'accuse contro la giustizia cialtrona in un testo inedito. E poi una stoccata di Maio. Di Maio va in gita. Panorama. E lavorarono felici e contenti. La più grande società mondiale di statistica ha condotto per Panorama una ricerca sui posti dove impiegati e dirigenti sono più soddisfatti. Ale, ci sono, vedi. Corriere della Sera, immigrati e le elezioni tardive, i migranti e le elezioni tardive, noi, l'ONU e la Libia, differenza Sarzanini e il fondo, ma poi c'è una grande foto che ci aiuta a ricordare il golpe democratico, è stato definito da Internazionale, ai danni di Mugabe, un golpe che depone un dittatore. Che cos'è? È quasi un paradosso logico, è democratico e utile al sistema, non lo so. Si parla dello Zimbabwe a 93 anni, pensate, Mugabe, Robert Mugabe se ne va. La difesa dell'Italia su conti e debito, ancora il Corriere della Sera, questo è il titolo di spalla, ma è il titolo più importante. Bruxelles sbaglia, Gentiloni, non siamo più il fanalino di coda. Ci sono due supplementi oggi, sia Repubblica che Corriere si fanno la guerra col supplemento orologi, ma sicuramente a molti interesserà, quindi lo segnalo. Carlo chiama Carlo, il Corriere dello Sport, su Tavecchio che licenzia Ventura e chiama Ancelotti. La Repubblica apre anomalo anche oggi. Ius soli subito la legge, ecco la prima mossa per celebrare la pace a sinistra. Entro l'anno il voto, il governo metterà la fiducia, pensioni, sanità, biotestamento, i punti della trattativa in corso, perché Berlusconi ora difende Draghi, il punto di Folli. E vi do l'altro parere interessante sulle nuove norme della corruzione, mentre Facci inveiva contro, vedete, Rizzo, corruzione, il valore della denuncia. Ci entreremo dentro perché è troppo importante. La foto, l'asse segreto Repubblica di Trump con il Cremlino, una ragnatela di affari, dossier, sesso, Gianluca Di Feo. Abbiamo fatto il giro di quasi tutto? No, perché c'è il Messaggero che ci regala l'opportunità di un titolo importante, vaccini a scuola, stop ai certificati, manovra dal prossimo anno, saranno le ASL a fornire la documentazione, non più i genitori. Ci si poteva pensare prima perché è una buona idea. E poi ho tenuto per ultimo perché è importante, Industria, Unione Europea all'attacco di Amazon e Alibaba, Confindustria bene le norme antidumping con la Cina e il whistleblowing si chiama, di nuovo il focus nel soppalco alto su questa norma che consente, agevola la possibilità di denunciare i colleghi fallaci. E poi un taglio importante, professionisti, nei contratti arriva l'equo compenso, mentre per tutte le multe si riapre la rottamazione. Poi entreremo dentro questo focus del Sole 24 Ore sul decreto fiscale, tante cose da raccontare. Ragazzi, pubblicità, ci vediamo fra poco. Io gli voglio bene, ma ambulante. Mattino. Sta all'Italia bastonata dai mondiali eliminata. Un evento che crea danni, mai successo in 60 anni. Quattro volte noi campioni, ora a nulla siamo buoni. Da stranieri è dominato tutto il nostro campionato. Dagli spalti noi applaudiamo. Squadre senza un italiano. Dopo ci meravigliamo. Se ai mondiali non ci andiamo, lo diciamo francamente, fu l'epilogo indecente. Noi del calcio siamo storia, ma la nostra antica gloria si riduce ad un'inezia se ci elimina la Svezia. Gasparri, poeta, anche questo produce la nazionale, però era divertente ed siamo qui, noi raccontiamo tutto, facciamo sentire tutto, tutte le voci, siamo il grande spettacolo della democrazia. Bene, allora parto dalla moglie di Brizzi e le accuse in TV, è una doppia pagina del Corriere della Sera e le cronache 22-23, il pezzo è di Alessandra Arachi, vi leggo l'attacco e i passaggi salienti. Il tono è delicato, come delicata è lei, con i suoi occhioni azzurri segnati e sgranati verso il mondo. Il dolore di Claudia Zanella però si percepisce dentro ogni riga della lettera scritta che ieri ha inviato ai giornali. Inevitabile la sofferenza. La moglie di Fausto Brizzi, su questa brutta storia di molestie che ha letteralmente travolto il marito, ha voluto dire la sua. Per la prima volta la sua lettera è uno sfogo. Lo sfogo di una donna giovane e bella, di una mamma, di una bambina piccola, di una moglie finita in nutrita carne, senza preavviso. Ed ecco l'incipit. Ho iniziato a fare l'attrice a 11 anni, oggi ne ho 38. In questi anni mi è capitato di sentire di tutto, racconti di produttori su attrici, attori, abusi di potere da parte dei registi, casting di uomini e di donne, avance ricevute poco gentili, decisamente fuori luogo. Ho anche conosciuto attori e attrici alla ricerca di notorietà a tutti i costi. Delicata, pacata, Claudia Zanella, scrive Alessandra Arachi sul Corriere, prosegue tuttavia con un'decisione. Se buona parte di tutto ciò che ho sentito ed è circolato nel mondo fosse vero, da essere umano profondamente rispettoso del prossimo, ne sarei profondamente disgustata. Però deve esserci una distinzione. Davanti alla violenza e all'abuso dobbiamo correre ai carabinieri e denunciare. Davanti a un approccio non gradito invece dobbiamo rispondere con un secco no e andarcene, come ha fatto io stessa molte volte in questi anni nell'ambiente del cinema. Mi addolora molto, dice ancora la moglie di Fausto Brizzi, ascoltare le accuse che sono state rivolte a Fausto in questi giorni. Non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco, pur nutrendo il massimo rispetto per le donne che si sono sentite ferite. Mi dispiace perché, a prescindere dal fatto che l'imputato in questo tribunale mediatico sia mio marito, non trovo affatto corretto per nessuno essere descritto come il peggiore dei criminali. E infine questo passaggio, attenzione, sono madre di una meravigliosa figlia femmina e devo esserle da esempio, però sono barricata in casa da 5 giorni, non posso nemmeno portare mia figlia fuori, quella di 1 anno e mezzo, al parco, perché sotto al nostro portone ci sono giornalisti e paparazzi a qualunque ora del giorno e della notte. Allora, la lettera che ho voluto leggere ampiamente della moglie di Fausto Brizzi, che è una persona, che è un individuo, che è una l'oggetto di una sofferenza in questo momento. Ecco, la lettera di Claudia Zanella ci apre molte domande. Che cosa potremmo fare noi se non si vuole essere ipocriti? Cosa dovrebbero fare i giornalisti? Dovrebbero rispettare questo dolore? Certo, questa è la prima cosa che viene in mente, però di fronte a 10 persone che accusano, di fronte a un dibattito, di fronte a nuove rivelazioni, le cito sempre al Corriere, la scuola di recitazione che aveva allontanato Brizzi per avance a 2 persone, lo racconta la direttrice, lei stessa, di fronte a una tatuatrice che aveva denunciato 2 anni fa, qui c'è un conflitto di interessi, chi bisogna tutelare? Le vittime, che in questo momento lo sono sicuramente, della famiglia Brizzi, ma anche le altre vittime, quindi non parlarne sarebbe bello, ma sarebbe anche ipocrita e impossibile per i giornali. Va bene, allora volevo dirvi quante cose ci sono oggi interessanti. Mameli, il titolo più geniale l'ho visto sul Messaggero. Mameli smette di essere precario. Avevamo l'inno precario e non lo sapevamo. Un bel pezzo di De Cataldo su Repubblica, Massimo De Cataldo, Giancarlo De Cataldo, lo scrittore, il magistrato. viene titolato così: La giusta rivincita di Mameli. Esce da questa precarietà, da questa provvisorietà che dura dal 1946, prima avevamo il Piave, prima avevamo l'Inno Reggio, è l'inno repubblicano, smette di essere provvisorio. E però la cosa interessante che volevo ricordare, in parte l'ho fatto, nel giorno in cui muore un grande compositore che va ricordato, Bacalov, la sua meravigliosa colonna del Postino, è che questa musica fu scritta da Novaro, ed è una musica patriottica, nata figlia di una stagione romantica. Due notazioni: una, che Ennio Morricone dice andrebbe eseguita molto molto molto più lentamente, lo racconta Nicola Piovani, un altro compositore su Repubblica, mentre invece Claudio Abbado, nell'esecuzione che diresse con i Berliner Philharmoniker, sto leggendo da Repubblica a pagina 37, mi piace questa analisi musicale, in questa esecuzione, che è quella che sentite a Rai 1, a Radio Rai 1 tutte le sere quando finisce, lo esegue a un tempo forsennatamente veloce, scrive Piovani, da risultare quasi sbrigativo. Personalmente penso che eseguirlo, dice Piovani, in due mezzi anziché in quattro quarti possa giovare a questa partitura. Però, dice ancora il compositore, a me risultano drammaticamente profetici i primi versi della seconda strofa. Noi siamo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Li ha scritti 170 anni fa un ragazzo di 20 anni che di lì a poco sarebbe morto difendendo la Repubblica Romana. E è vero, sono attuali, siamo ancora calpesti e derisi e lo siamo anche oggi nel racconto di questa guerra con l'Unione Europea, di conti che non tornano. Dove andiamo? Andiamo verso il un bel gesto di De Rossi, Daniele De Rossi. Voi dite, ma che c'entra ancora il calcio? No, un gesto simbolico di un atleta. Fra l'altro spesso De Rossi aveva preso tanti cartellini. È salito sul pullman della nazionale svedese e ha chiesto scusa per i fischi che c'erano stati durante l'inno a Milano, al San Siro. Sono due inni che si parlano, ma è una cosa molto bella. Allora, Fassino e D'Alema, Corriere, pagina 5, una telefonata burrascosa, ma no, in realtà quasi algida, in cui Fassino faceva il giro delle telefonate per questa specie di trattativa impossibile, però non c'è stato niente da fare. D'Alema gli ha detto, guarda, prendiamo più voti così. E allora il retroscena di Monica Guerzoni sul Corriere, a 8:30 sulla 7 Bersani ha chiuso la mediazione con il PD, è teatro, uniti si vince o cambiando si vince, se il PD cancella il Jobs Act e si tiene Renzi ci stiamo alla grande. È una specie di rilancio, ognuno mette le sue condizioni. Maria Teresa Melli fa il ritratto di questo calvario di Fassino, il pontiere, le porte restano chiuse, discutiamo su tutto, Jobs Act compreso. Volevo farvi sentire Ingroia, che su Repubblica racconta di fare un nuovo movimento, ma non a sinistra. Ingroia, volevo evocare quel meraviglioso Crozza che lo prese in giro. Ingroia disse che era stato responsabile della sua sconfitta elettorale, e quindi Ingroia dice facciamo un movimento costituzionale. Ma dove va questo movimento? Quello precedente finì così. Nel movimento sì, movimento, certo, c'è la società civile, i pacifisti, sì, vero, vero, micro mega, certo, uno c'è una percentuale di Cirque du Soleil, no, ma c'è cosa un dice? Coro gospel, tre soci di Celentano, no, e vai, senta, dottor Ingroia, lei ha detto che più remetta. Lei ha detto che il primo provvedimento che farà sarà risolvere il conflitto di interessi. L'ho detto? E vabbè, ma ci piace. Allora, Fabio Massimo Castaldo, chi è costui? È il grillino che è stato eletto vicepresidente del Parlamento Europeo. Proprio ora, specialista di politica estera, leggo Alberto D'Argenio su Repubblica, strinse la mano a Assad, negò l'uso di armi chimiche da parte del dittatore siriano, è stato eletto vicepresidente del Parlamento Europeo, e questa è la cosa l'innovazione molto grossa con un accordo con MDP. Attenzione, perché sono i prodomi di una possibile alleanza dopo il voto? Non lo so. L'intervista di Di Maio però farà discutere, e ne discuteremo con Oscar Giannino, sempre su Repubblica, pagina 6, l'apertura: meno tasse sulle imprese, più deficit per l'economia, uno shock alla Trump. Sicuramente sarà una cosa importante, perché si aggiunge un dibattito, come sapete, già ampio su queste cose. Voglio andare a cambiare totalmente campo, e lo faccio con il Corriere della Sera, perché c'è un'intervista a Di Stefano di Casa Pound. Di Stefano festeggia nell'odiato sistema, ha fatto un picco in televisione, c'è una foto di Di Stefano e Nina Moric con una maglietta nera dietro la tartaruga di Casa Pound, e Di Stefano festeggia il picco di ascolti in TV. Siamo fascisti, ci piace anche Putin, siamo stati sdoganati non dalla televisione ma dai risultati elettorali, da Ostia a Bolzano, da Lucca alla Lamezia Terme. Nel tempo abbiamo ospitato centinaia di politici e di giornalisti, fra loro anche Paola Concia, l'ex BR Morucci. Siamo per il dialogo. Traffico, Oscar, e che è molto più cattivo di me. Quattro mattino. Succede che? Che sono tornati insieme, questo succede. Sono tornati insieme. Ma chi? Come chi? Sono tornati insieme. La commozione di Checco Zalone, perché Albano e Romina erano tornati insieme. Oggi Albano annuncia l'addio dal 2018, è una nuova formula meravigliosa. Ma questa è l'Italia, Tavecchio non si dimette, Albano si dimette con un assegno postdatato, siamo grandi. E allora decreto fiscale, rottamazione per tutte le multe, entriamo nel money. Rottamazione per tutte le multe, pagina 3, Il Sole. Marco Mobili e Marco Rogari, gli uomini che si addentrano nella giungla delle norme, dei decreti, dei codicilli, per capire come funziona. Rottamazione per tutte le multe, nuova chance per i comuni anche sui tributi locali. Stop alle fatture a 28 giorni. E qui dico applauso per TLC e PayTV. Allora, ecco la ricapitolazione che fa Il Sole 24 Ore. Rottamazione bis, mini scudo, spesometro, tax credit, cannabis terapeutica, bollette, uscita da scuola, golden power, sono l'estrema sintesi di quello che entra in questo ultimo addendum nel decreto fiscale. E il pezzo di Gianni Trovati di Spalla: calendario stretto per le nuove rate, stop al 30 settembre. La rottamazione delle multe e dei tributi si può riaprire in tutti i comuni, anche in quelli che non erano saliti sul primo treno della definizione agevolata. Per decidere, gli enti locali avranno 60 giorni di tempo, quindi attenzione, 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale. Ma il calendario della seconda chance sarà breve, perché le rate non potranno andare oltre il 30 settembre. Mi sembrava doveroso darvi questa segnalazione, perché è una gincana, dobbiamo infilarci come James Bond quando passa sotto le porte blindate che si chiudono e poi boom, esplode tutto. Vi parlavo della diatriba, del conflitto che continua a bruciare, ardere sotto la brace con l'Unione Europea sul tema delicatissimo dei nostri conti e soprattutto su quello del debito. Se riesco a recuperare La Stampa, era proprio l'ultimo, una cosa incredibile. La Stampa, pagina 17, fa il punto. Ieri leggevo Dal Sole, oggi il racconto prosegue con un altro giornale, ma il tema è tutto qui. L'Unione Europea insiste. Il debito è troppo alto. A settembre il passivo italiano sale a 2.283 miliardi. Segnate 2.283 miliardi. Sale e il problema, dice Padoan, si risolve con il PIL a più 1,8%. I mercati, dice il ministro, hanno già scontato il rischio di aumento dei tassi dopo la fine degli stimoli della Banca Centrale Europea. Però non si convincono. E allora vi leggo l'attacco di questo articolo, che non è firmato, ma è l'apertura dell'economia. E Bruxelles tiene il punto e richiama l'Italia al rispetto degli impegni. L'Italia sta vedendo una ripresa e si rafforza, ha spiegato ieri un portavoce della Commissione dell'Unione Europea, ma di fronte a sfide persistenti alla luce del suo elevato livello di debito. Per questa ragione ormai è dato per scontato che, oltre all'ennesima lettera per chiedere altri chiarimenti sulla nuova legge di bilancio che verrà spedita nei prossimi giorni, l'Europa, il prossimo maggio, ci contesterà ufficialmente uno scostamento significativo del percorso di risanamento, chiedendo un aggiustamento nell'ordine dei 3,5 miliardi. Allora era La Stampa, Economia e Finanza, pagina 17. Ok, possiamo andare, andiamo a mitragliare. Repubblica, pagina 23. Gay contro il test di medicina. Ora uno dice: ma cosa c'entra? Perché si arriva a questo? Sì, si arriva a questo perché le associazioni degli omosessuali hanno ravveduto un intento discriminatorio nella domanda che viene fatto nel test a coloro che si vogliono iscrivere alla facoltà di medicina. Ci considerano dei malati. Il quiz diceva: in che percentuale si manifesta l'omosessualità? Fedeli, gravità inaudita, è stato corretto. E vai. Allora, continuo a, come dire, ad appassionarmi a queste vicende piccole, che qualcuno mi dice: ma no, non parliamo delle storie piccoline, private. Sì, ma è stupendo. La moglie, arrabbiata con il marito, ha pensato questa raffinata vendetta. Che cosa ha fatto? Ha preso la macchina del porco e ha fatto 20.000 euro di multe in 48 ore. Come ha fatto? Per vendicarsi ha detto: te voglio rovinare, come si dice a Roma. E va bene, vai, vendicatrice! Allora, un litigio sui gatti è finito in corte d'assise con una sentenza che è stata emanata ieri, Messaggero, pagina 57, 22 anni, perché si era arrivati all'omicidio per dei gatti che razzolavano dentro il giardino. È un paese di pazzi, ragazzi, è un paese di pazzi. Multe a Roma, è importante, multe a Roma è interessante perché c'è il record di evasione degli stranieri. Ora vi racconto questo aneddoto: ero andato in Olanda, stavo entrando in un bed and breakfast, ho lasciato la macchina davanti all'ingresso, c'erano delle strisce normali, c'era un parcometro, non sapevo come si pagava perché hanno dei parcometri avveniristici. Entro e dico: scusi, ma come si paga qui? Esce il gestore del bed and breakfast: corra a pagare con la carta di credito. Ci siamo precipitati, abbiamo pagato troppo tardi, in un minuto e mezzo mi avevano già stangato. Perché? Perché passano con le biciclette, con delle fotocellule nei raggi, questi cavolo di vigili, e in un minuto e mezzo posa la macchina, entra in albergo, chiedi come si paga, mi avevano già mandato la multa. Questa multa è arrivata: primo giorno 50 euro, dopo un mese 100 euro, dopo un mese e mezzo 150 euro. Aveva una terribile fascia viola che mi annunciava che mi stavano inseguendo quelli di Amsterdam. Sono andato, ho pagato 150 e via per liberarmi. E poi leggo che a Roma, mascalzoni, su 10 milioni di multe gli stranieri ne hanno pagati solo 2 e ci fanno la morale. Ma va, dai. Ventura, licenziato. Beh, se n'è andato. Beh, uno si è dimesso, sì, ma attenzione, perché è durata giorni questa trattativa? Perché ha detto: me ne vado solo se mi date sull'unghia la liquidazione, 800.000 euro che dovevo percepire fino all'estate. Va bene, possiamo entrare. Cani e gatti, fra poco giornale radio, chiamate a Radio 24, c'è Luca Telese, una volta al mese, no, tutti i giorni di primo mattino, c'è anche Oscar Giannino.